per fidarmi di te. Dovrei fingere che sei importante per me, a tal punto che non posso vivere senza di te. Invece questo non penso, non mi fido a tal punto che vorrei restar solo, in assoluto riposo, e posso vivere senza di te. Confondi amore con odio, ti lanci in atti deviati, non ti accontenti dei modi, e a me non basta più. Quello che non mi dai, quello che non mi dai, quello che non mi dai, quello che non mi dai, quello che non mi dai, quello che tu non mi dai, quello che non mi dai, quello che tu non mi dai, quello che non mi dai, quello che tu non mi dai. Quello che non mi dai, quello che non mi dai, quello che non mi dai. Io sono un pesce fuor d'acqua che nuota controcorrente e risalgo alla fonte, perché lì so per pace posso vivere senza di te. E tu invece sei inquieta, ti muovi come impazzita e ti nascondi in fretta, e a me non basta più. Quello che non mi dai, quello che non mi dai, quello che non mi dai, quello che non mi dai, quello che non mi dai, quello che non mi dai.